Allora, ciao a tutti, buonasera ai presenti, e siamo qui a fare questa chiacchierata fra più o meno fra amici, e insomma dovrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Io, vabbè, per chi non mi conosce, e sono pochi credo, sono Rossella e sono fra le persone che hanno fondato la cicloofficina Lucky Shot qui a Snia. E diciamo, il mio compito è un pochino quello di presentare la serata. Quello che volevamo, la cosa con cui volevamo cominciare era un po' il dirci qual è il senso di questo incontro in un luogo come questo, come la cicloofficina Don Chisciotte. La cicloofficina, penso che più o meno tutti la conoscete se siete qui, è un luogo in cui si riparano biciclette. Ovviamente non è un negozio di bici come tanti che ce ne sono a Roma e altrove. È un luogo in cui abbiamo la pretesa di utilizzare delle modalità di relazione con gli altri, col mondo e con il denaro, che sono un pochino diverse da quelle che si usano fuori. Quindi l'idea è di condividere delle esperienze piuttosto che fare riparazioni in conto terzi. Quello che ci interessa qui più che altro è condividere delle esperienze, fare in modo che le relazioni che si instaurano all'interno di questo posto non siano mediate dal denaro, ma funzionino attraverso altri canali. Il senso di questo incontro qui in un luogo come questo è legato proprio al tipo di approccio che noi abbiamo, no? In qualche modo questo luogo è nato da una grande utopia, è nato poco dopo l'inizio della Critical Mass a Roma, in un momento di grosso entusiasmo, e è nato proprio per coltivare un'utopia in qualche modo, un luogo all'interno del quale portare un pensiero critico principalmente sul sistema economico e sulla città, ok? Quindi sulla città, perché quello che a noi sembrava all'epoca e anche oggi, insomma, non è che le cose siano cambiate molto, è che la città sia fondamentalmente dominata dalla dittatura delle auto. L'automobile per noi è in qualche modo un simbolo molto forte di un sistema che ci stritola, che poi è il sistema capitalistico. Cioè, la macchina è fortemente simbolica di un'idea di città e di un'idea di economia, e proprio per questo abbiamo invitato qui stasera un economista, diciamo, e un architetto, per quanto abbastanza eretici, ci sembra di capire. E quindi adesso loro faranno questi interventi, e poi ci sarà anche lui che ci parlerà appunto del comitato per l'autoriduzione del biglietto ATAC. Grazie. È fondamentale, questo è un elemento fondamentale. E l'idea appunto è che loro facciano i loro interventi, dopodiché, appunto, essendo una chiacchierata tra amici, non una cosa estremamente, assolutamente una cosa formale, in qualche modo tutti siamo invitati a partecipare alla discussione. Cedo la parola a Juan. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito comunque a partecipare in questa tavola rotonda. Grazie. Mi ha rubato un paio di cavalli di battaglia, no? Che non avevo preparato. Se mi sono preparato l'intervento, però sono uno bravo ad andare a braccio, no? E niente, volevo cominciare perché raccontandovi che a proposito di questo invito, no? La prima volta che mi sono visto con Nice, comunque la prima telefonata che ho ricevuto, è la prima volta che ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a discutere, no? Ho cercato un po' di riflettere su quale sarebbe stato il mio contributo in questa doppia veste che magari rappresento oggi, una come dottorando, come studente di dottorato che sta facendo una tesi cercando di capire che cosa significa agire in pubblico e agire spazialmente. Quindi posso riassumerla dicendo agire sullo spazio pubblico, no? Che cosa significa questo nella città contemporanea. E poi comunque come membro fondatore del collettivo Orizzontale, un collettivo che a questo spazio ne deve tanto, perché l'azione di fondazione non sarebbe mai stata possibile senza l'aiuto della SNIA, quindi voglio ringraziarla pubblicamente. La SNIA ci ha permesso di usare i locali, cioè i loro locali, per poter lavorare le nostre installazioni, che poi sarebbero andate a uno spazio come quello del Pigneto, no? Ci ha aiutato comunque, cioè, fornendoci questo spazio, inoltre comunque aiutandoci a riflettere che cosa era, che cosa poteva essere agire sulla città, in concreto agire su un quartiere come il Pigneto, che oggi è vestito di dinamiche molto diverse, come la gentrificazione, come la sostituzione del tessuto sociale, eccetera. No? Allora, quello che ho trovato, cioè quello che ho trovato come suggestione più immediata per strutturare il mio intervento oggi è stata un'altra provocazione lanciata dal caro Piero, che tutti conosciamo, però oggi non c'è qua, no? Che a seguito di una sua intervista dove è stato intervistato per Post-it, no? per parlare da Cemona, e ha comparato Orizzontale ai meccanismi, cioè ai movimenti al movimento Reclaim the Street, no? E poi quando ci siamo incontrati lui mi diceva: guarda, sicuramente non ne sai nemmeno che cosa sono i movimenti Reclaim the Street, no? Mi piacerebbe che oggi ci fosse per fargli capire che ho fatto i compiti comunque, cioè mi sono informato, che sono andato avanti su questo, sulla ricerca sul movimento Reclaim the Street, e quindi ho deciso di agganciarmi a questa provocazione e fare un parallelo su cosa, cioè sulle somiglianze che ci possono trovare tra il movimento Reclaim the Street e i movimenti di riappropriazione e riattivazione dello spazio pubblico che io in questa sera sto cercando di rappresentare. Allora, partiamo con la prima di queste somiglianze che ho trovato tra entrambi i movimenti, no? Ed è comunque che sia Reclaim the Street che i movimenti, cioè che gli attuali movimenti di riattivazione e riappropriazione dello spazio pubblico, sono movimenti che, ma rappresentati nell'architettura, scusate, comunque, vabbè, cioè la mia professione, sono movimenti di natura prettamente metropolitana, no? Questo mi ha portato a pensare che c'è stato, cioè che forse è arrivato il momento di superare questa dicotomia tra la società urbana e rurale, no? È da qualche anno che gli abitanti in città sono maggiori di quelli che abitano in campagna, no? E comunque questi movimenti, entrambi i movimenti, si focalizzano proprio sull'ambiente urbano, sull'ambiente metropolitano, no? E quindi si può far pensare che siamo entrati nel pieno di una società veramente urbana, no? E allora su questo, cioè, la domanda è che cosa si implica oggi vivere in città. La prima cosa, cioè la prima risposta che mi è venuta da dare è quella di la mancanza di spazio pubblico. Esiste una mancanza di spazio pubblico secondo diverse teorie, magari nella sociologia piuttosto che nella filosofia, che piuttosto che nell'antropologia, danno comunque una spiegazione, danno la colpa, per così dire, comunque al controllo che forse il sistema, non mi piace, perché comunque forse non sono troppo esperto, tra l'altro c'è un economista qua, e quindi, al quale, forse qualcuno anche in pubblico, non mi piace molto parlare del sistema, però riassume molto bene questa colpa che si può dare, no, al sistema capitalistico, che ha sottratto gli spazi per la condivisione, gli spazi per la relazione e gli spazi per le future, per i futuri incontri. E quindi, da una parte, si dà la colpa alle amministrazioni locali che comunque sono disinteressate ai problemi della collettività, dall'altra parte il sistema capitalistico si è appropriato comunque della città a tal punto di non trovare uno spazio per poter condividere. Infatti qua vi volevo raccontare un aneddoto che come Orizzontale ci è successo, no? Nella nostra prima azione di fondazione, quella di cui parlavo prima, abbiamo agito sull'incrocio tra via Cussano e via Conte di Carmagnola. E niente, io e il mio socio, il fondatore Orizzontale, quando siamo andati al comune per prima volta, perché io mi trovavo lavorando per uno studio di architettura dove stavano facendo una mostra per loro, loro dicevano sostenibile, no? Dove si è arrivato un quintale di cartone a questa mostra, e questo quintale di cartone serviva come pannello espositivo. Era sostenibile perché il cartone è un materiale riciclabile, riutilizzabile, sicché mi trovo davanti al fatto che loro, dopo quella mostra, avrebbero buttato via il cartone, no? Quindi noi abbiamo deciso di interferire in questo ciclo, no? Questo ciclo che insegna la sostenibilità, no? Parlava, no? Abbiamo deciso di ridare una nuova vita, quindi ci siamo presi questo cartone, ce lo siamo portati qui alla Simina e lo abbiamo rilavorato cercando di agire sullo spazio pubblico, su questo spazio pubblico in particolare. Allora siamo andati al municipio, no? E abbiamo detto: va bene, comunque che cosa ci serve, no? per levare 10 motorini che sono parcheggiati sulla strada e mettere comunque una serie di sedie e tavoli in cartone perché la gente possa usufruirne di questo spazio, visto che comunque un marciapiede è uno spazio pubblico e se la gente non può usufruirlo, noi cerchiamo di dare la possibilità di farlo, no? E loro ci dicono: dovete pagare. Noi abbiamo detto: ma come? Comunque non è uno spazio di tutti, non è uno spazio per la collettività. Cioè, com'è che dobbiamo pagare questo per usare lo spazio, cioè lo spazio della città? Sì, perché così. Ma vabbè, forse loro hanno trovato questo scamotage, no, voi siete comunque studenti, dai, su, alla fine ve lo possiamo anche regalare, non dovete pagare l'occupazione di spazio pubblico, però dovete pagare un'assicurazione. Ma perché? No, perché i cartoni sono un materiale pericoloso, materiale che comunque è messo per la strada, capito? Se qualcuno ci inciampa può cadere e morire. Ma come, cioè? Ma come muore, capito? Cioè, il cartone è il materiale più innocuo che c'è, l'abbiamo utilizzato, cerchiamo che la gente comunque si confronti, possa stare nello spazio, cioè non ci potete impedire comunque, no? Pagando un'assicurazione di non fare questo intervento. Per poterla realizzare siamo andati avanti, abbiamo deciso di pagare questa assicurazione. Ovviamente non è successo niente, la giornata è stata tranquilla comunque, e noi ci siamo visti, cioè, spendere questi 200 euro dell'assicurazione per cercare di dare comunque un'opportunità a quello spazio che aveva già una natura in sé pubblica, no? E quindi da là ci siamo un po' accorti che lo spazio pubblico forse era inesistente o quantomeno era scarso. Allora, per continuare con il discorso di prima sulle analogie sulle street i movimenti di riproduzione e riattivazione, c'è una seconda analogia che ho trovato, no? Che è la mancanza di spazi di libertà rivendicato dai clandestini, no? Loro rivendicavano comunque lo spazio, cioè lo spazio della città non era uno spazio di libertà uguale orizzontale, che comunque, cioè, siamo un collettivo di architetti e diciamo comunque, cioè, come gli architetti non possono incidere sulla città, non possono cambiarla perché comunque questo spazio non è vero, non è per tutti. Allora ci siamo dovuti inventare in questo caso, cioè ci siamo dovuti riciclare come artisti, dire comunque che siamo artisti, che siamo artigiani, che siamo una sorta di falegnami ogni volta che andiamo, no? Che andiamo ad agire su qualche spazio, perché comunque è molto più libero, cioè è molto più libero essere artista che non architetto, no? L'architetto ha delle procedure molto normate, senza, cioè, che non, alle quali non può scappare. Una terza analogia che ho trovato comunque tra entrambi i movimenti, che sono movimenti antitraffico, e come prima diceva Rossella, non è che il traffico è il leitmotiv di questi, cioè dei movimenti di riproduzione e riattivazione della città, bensì il traffico è diventato un po' il simbolo, no? Il simbolo dell'economia, no? L'economia capitalista, per la quale tu comunque, tu individuo, non solo comunque abiti la tua casa, abiti comunque tutta una serie di spazi di lavoro, una serie di spazi di studio, eccetera, sennò che anche devi abitare la strada con un pezzo, cioè con una macchina, con un pezzo di metallo, che deve essere posizionato per la strada e sottrarre spazio, cioè, mentre tu non... Sempre gratis. No, comunque tu non puoi mangiare sulla strada, non puoi mettere una panchina, non puoi mettere una sedia, non puoi mettere un tavolo, però puoi mettere un SUV, puoi mettere una macchina, una panda, comunque, cioè quello che hai, quello che tu hai, la possibilità. Ed è più facile, capito, che tu occupi questo spazio in maniera individuale che non con delle attività collettive. Un'altra, cioè, un'altra analogia che stavo, no, che avevo riscontrato qui era il fatto che se questi movimenti, cioè sia il movimento per il clandestino o i movimenti di riappropriazione, cioè, avvengono in pubblico. Ma comunque, per esempio, quando noi andiamo per la strada, cioè, puntiamo molto sul fatto di lavorare lì sulla strada, di far vedere alle persone comunque che stiamo cercando di approcciarci quello spazio facendolo noi da soli, insomma, da soli o comunque, cioè, invitando anche le persone a venire a lavorare con noi, allo stesso tempo comunque non lo facciamo in maniera privata, cioè non portiamo le cose già fatte, cioè, se non in pochi casi. Allora, questo fatto che questo tipo di azioni avvengano in pubblico, cioè, prevedono il fatto di fare un discorso più ampio, non è soltanto comunque che si vuole rivendicare lo spazio, cioè, non è un semplice atto, se no questo agire, noi lo cioè, cerchiamo di trasformarlo comunque in un agire politico, perché non vogliamo solo dire comunque, guarda, lo spazio è di tutti, lo spazio potrebbe essere di tutti, se noi ce lo appropriassimo, se no che comunque, cioè, ce lo dobbiamo costruire, ce lo dobbiamo appropriare, no? E quindi fa questo passaggio dell'agire comunque, dell'agire non agire politico. E per ultimo, comunque, cioè, l'ultima di queste analogie che volevo riscontrare, che comunque, cioè, quello che sta alla base, di questi due movimenti, no? Sia il clandestino che il movimento di riattivazione dello spazio pubblico, è l'espressione di un desiderio, però non un desiderio. Cioè, non un desiderio, magari, no, ma un desiderio connotato che è quello del divertimento, no? Della disobbedienza, dell'incannalare comunque questo desiderio che sta nelle persone nel prendersi, nel riprendersi la città in forma di festa. Allora, cioè, questo è un modo comunque, cioè, la festa implica che ci siano più di una persona per divertirsi, no? E quindi è cercare un po' di uscire di questo, no? Questa tendenza al narcisismo, magari, no? Che asola un po' la nostra società, e dire comunque, cioè, non siamo più noi che dobbiamo dimostrare niente, cioè, ci dobbiamo divertire, dobbiamo esprimerci insieme. Allora, per concludere un po' questo intervento, scusate l'incasinamento perché è stato abbastanza portato di qua e di là, cioè, le domande sono due: che cosa sono diventate oggi le strade? E per me comunque le strade sono diventati, cioè, luoghi in cui muoversi, luoghi che non devono essere vissuti e luoghi che esistono in funzione di qualcos'altro, o in funzione dell'automobile, come detto prima, o in funzione comunque del commercio. Allora, può esistere il bar che mette i tavolini sulla strada e comunque dove tu ti devi sedere e consumare, no? Quindi implica che tiri fuori denaro per poter usufruire di quello spazio pubblico, o comunque, cioè, spazio che viene invaso sia con la pubblicità, con le vetrine, comunque, cioè, dove tu attraversi, cioè, e non devi stare, devi comunque andare da qualche altra parte, no? Con questo tipo di costrizione, comunque, se non di costrizione non mi viene la parola, forse sarebbe, no? Questa incitazione, no? Ti incitano magari comunque nello spazio della città. Sì, un po', cioè, un po' che non avere questa alternativa. Cosa, cioè, stiamo cercando, cioè, io sto cercando di indagare sia nella mia tesi di dottorato, sia comunque col collettivo orizzontale, che cosa vorremmo che fossero le città, luoghi dove consumare tempo non produttivo e luoghi dove sperare di godere di eventi in attesa. A questo punto volevo finire con una domanda a Andrea, e chiedergli comunque quale può essere oggi il valore della nostra società di questo tempo non produttivo. Cioè, il tempo non produttivo può avere un valore che non sia monetario, che non sia di scambio, e può essere un valore utile per riattivare e riprendersi la città, o comunque, cioè, non ha senso continuare andando in questa direzione, e tanto vale domandarsi. Grazie. Allora, lui Juan ha lanciato una domanda molto così, diciamo, provocatoria ad Andrea, e in teoria era previsto l'intervento sull'ATAC, che in realtà in qualche modo riprende il concetto di mercificazione. Quindi magari facciamo l'intervento e poi facciamo rispondere. Ciao, io sono Dario, sono doppia veste. Doppia veste perché sono sia nell'assemblea chiamata cosiddetta per le autoriduzioni, ma sono anche della SNIA, faccio parte del collettivo della SNIA. E ho chiesto di fare l'intervento primo perché devo andare via presto, secondo perché prima di passare al tema generale, cioè a un quadro macroeconomico sulla situazione che stiamo vivendo e che viviamo a Roma, che si vive anche in altre città, cioè che è l'obbligo di vita che ci impone il capitalismo, un altro elemento che, partendo dalla vicenda dell'ATAC, è utile a definire la situazione in cui viviamo, è proprio questo. Quindi per dare, qua mi è partito proprio da una situazione molto reale, da una situazione che ha vissuto e che vive, che si vive in questa zona di Roma, e quindi per completare il quadro sulla situazione che viviamo in questa città, chi la vive tutti i giorni, raccontare la vicenda dell'ATAC mi sembra molto utile, perché la vicenda dell'ATAC, come la vicenda della CEA, l'Assemblea per le Autoriduzioni, è qualcosa che è partita prima con la questione delle bollette della CEA, cioè dopo il referendum dell'acqua, sarebbero dovute avvenire una serie di cose che avrebbero dovuto portare a una riduzione dei costi, ad una 17% in meno ci sarebbe dovuto essere. In questa città in cui Quan ha detto due parole molto importanti, ha parlato di gentrificazione, che è un fenomeno che anche a livello linguistico abbiamo mutuato, cioè l'interpretazione di un fenomeno che abbiamo mutuato dalla sociologia inglese, cioè il cambiamento dei quartieri popolari che mano a mano diventano luoghi dove viene a vivere, come dire, una borghesia anche un po' etonistica, che arriva dapprima per motivi modaioli, per la movida, e poi cambia drasticamente i quartieri. E un'altra parola molto importante che ha detto Quan è privato. Roma è una città dove tutto ciò che è privato, tutto ciò che deve generare rendita, che genera speculazione, funziona al 1000 per 1000. Tutto ciò che è pubblico viene lasciato a se stesso, viene lasciato a morire, e questo è quello che sta avvenendo con l'ATAC. Dal 25 maggio il biglietto dell'ATAC è arrivato a 1,50 euro. 1,50 euro per usufruire di un servizio che dire vergognoso, scadente, è poco. Un servizio che impone dei calvari a chi utilizza i mezzi pubblici. Cioè in questa città i mezzi pubblici ormai, dato che tutta la città è vocata al traffico privato, che sia privato, cioè le automobili, i SUV che occupano la strada e le panchine di tram non possono occupare la strada perché sono pericolose, e il traffico dei pullman, è notizia di oggi che Alemanno ha autorizzato il transito sulle corsie preferenziali ai pullman turistici. Questo è qualcosa che è contrario in assoluto al modello di città che credo abbiamo in mente, cioè nel senso il pubblico, cioè la corsia preferenziale, che è è l'apice dello spazio pubblico, cioè dove transitano i mezzi pubblici, è aperta al traffico privato, cioè al traffico dei pullman, quindi al traffico di chi può permettersi, di chi paga un servizio. Servizio che invece a noi, cittadini di questa città, chi residente, chi non residente, viene invece mano a mano tolto. Il biglietto a 1,50 euro c'è stato anche in qualche modo propagandato come una cosa di civiltà, cioè ma come? A Milano costa 1,50 euro, a Milano ci sono 8 linee di metropolitana, a Parigi costa 1,50 euro, anche 2 euro costa, a Parigi ci sono tipo 12 linee di metropolitana, a Parigi c'è un servizio pubblico che ti porta da un capo all'altro della città, che collega anche i paesi dell'Interland di Parigi in modo eccezionale, cioè noi stiamo pagando quanto Parigi e quanto Milano per avere un servizio pubblico che è degno, cioè indegno di una città che si vuole dire moderna, indegno della cosiddetta capitale d'Italia. Accanto a questo, accanto all'aumento a 1,50 euro del biglietto, a fronte di nessun miglioramento del servizio, perché diciamo, questa assemblea, cioè questo incontro nasce dalla nostra ciclofficina. Chi utilizza la bicicletta in questa città, vuol dire, o riesce a farsi il mazzo e attraversare, scusate il francesismo, tutta la città in bicicletta, oppure quello che è chiamato trasporto intermodale in questa città non esiste. Cioè io per caricare una bicicletta su un treno o su un autobus devo litigare con 100 vecchiette che hanno le borse della spesa, e neanche è possibile, perché anche pagare il biglietto con le biciclette pieghevoli forse me la riesco a cavare, però è un trasporto pubblico che non è pensato per l'intermodalità, cioè è pensato per chi non c'ha i soldi da avere il sub da attraversarci Roma, e quindi se voi avete fatto caso sugli autobus ci viaggiano studenti, immigrati e vecchietti. Tutto il resto della popolazione, che è popolazione consumatrice, cioè viaggia in macchina, cioè con Alemanno la città è stata riconsegnata completamente alle automobili, non che con le giunte precedenti la città fosse appunto a misura di pedone o ciclista, anzi, cioè, quello che ha determinato la situazione attuale dell'ATAC nasce da molto prima, cioè la parentopoli cosiddetta di Alemanno è proprio l'ultima parte di quello che hanno fatto Rutelli e Veltroni, cioè nel senso non ci scandalizza che la CGIL ha fatto entrare 400 persone dentro l'ATAC. L'ATAC è un'azienda pubblica che deve generare profitti, e qui sta la follia estrema. Cioè un'azienda di trasporto pubblico non è un'azienda che può generare profitti, perché offre un servizio che deve essere prima di tutto pubblico, secondariamente poi universale, e quindi non può generare profitti. Come per tutte le aziende municipalizzate è passata l'idea che se un'azienda non è produttiva non può stare in essere, non può esistere. E quindi qual è la soluzione che è stata individuata e che ancora non è stata dichiarata, ma è quello che è? Perché basta leggere il piano industriale dell'ATAC per capire che il futuro dell'ATAC è il futuro dell'Alitalia, cioè è quello che è stato per l'Alitalia. A un certo momento questi signori diranno: ok, con questo sistema, con questa gestione, l'ATAC non può più andare avanti, privatizziamo i servizi. Dentro il piano industriale dell'ATAC, che è a monte dell'aumento del biglietto, è a monte dell'obbligo per tutti di pagare le tessere annuali, che cosa c'è? C'è un piano industriale folle. Io vi dico solo un elemento che c'è in questo piano industriale. All'interno del piano industriale si legge un capitolo, si leggono alcune frasi che dicono che i mezzi, cioè le linee, le tratte meno redditizie, e guardate, stiamo parlando di tratte redditizie, cioè trasporto pubblico universale, saranno tagliate. E quali sono le tratte meno redditizie? Quelle che collegano le periferie, periferia a periferia, o le periferie alle zone semiperiferiche. Quindi vuol dire che tutti quegli autobus che servono i quartieri periferici, per quanto riguarda la nostra zona di Roma, le tratte che vanno a Tor Bella Monaca, a Borghesiana, che vanno sulla Casina, verranno tagliate. Perché? Perché chi è che va su quegli autobus? I poveri, gli studenti, gli immigrati. Quindi perché mantenere un servizio per chi non consuma, per chi viene nella città e non produce reddito e rendita, per chi possiede i bar, per chi possiede i negozi? Quindi tutte quelle linee andranno tagliate. Il piano industriale dell'ATAC che prevede un trasporto concentrico, cioè nel senso non concentrico, centrico, cioè dalla periferia tu puoi venire al centro di Roma, ma le periferie, provate ad andare da qui a Pietralata con un mezzo pubblico, dovete cambiarne tre su una distanza che in linea d'aria sarà di 5 km. Provate a spostarvi verso Cinecittà, è un calvario, però per arrivare al centro di Roma, per arrivare al salotto buono di questa città, va benissimo così. Quindi tutto ciò che è privato, cioè tutto ciò che è pubblico, deve essere privatizzato. Hanno portato, questo per far capire il modello di città che vogliono e soprattutto come percepiscono i cittadini, gli abitanti di questa città, hanno portato le tessere, gli abbonamenti ad essere obbligatoriamente annuali. Ora, sia chi è fuori sede che fa l'abbonamento, quello spaventoso, perché non è riconosciuto vivere in una città se non c'è un pezzo di carta che lo attesta, sia l'abbonamento che hanno i disabili, sia l'abbonamento che hanno gli ultra 65 anni, erano due possibilità, o l'annuale o il mensile. Io potevo pagare i mesi in cui realmente usufruivo del servizio pubblico. Adesso no, non è più così. Adesso, per usufruire dei titoli agevolati, bisogna fare l'abbonamento annuale. Quindi, presumibilmente, io a agosto, come tutti gli italiani, non vado in vacanza, magari ritengo che spendere anche i soldi della tariffa agevolata è inutile, mi pago il biglietto quelle due volte che prendo l'autobus e non lo faccio. Adesso no, è impossibile. Devo fare l'abbonamento annuale, quindi devo pagare anche quello che non consumo. Cioè mi trattano non come un cittadino, ma semplicemente come un consumatore, ma come consumatore mi impongono di consumare anche quello che non consumo, di pagare tutto quello che non consumo. Questo, le agevolazioni per disabili e per anziani erano state tolte all'inizio. Quello che è un diritto acquisito, cioè il disabile e l'anziano, che sono, diciamo, in una città che è immaginata per il trasporto con le macchine, le categorie più deboli, il disabile spesso non guida, l'anziano spesso non guida, sono state le prime due categorie che l'ATAC ha deciso di colpire. Hanno mandato una lettera ad aprile di quest'anno dicendo che quello che era un diritto acquisito, cioè compiuti i 65 anni, tu avevi il diritto, per continuare a muoverti nella tua città, ad una riduzione molto forte dell'abbonamento. Dai circa 25 euro che erano, ne pagavi 15 al mese. Per i disabili l'abbonamento è di 4 euro mensili. Che cosa ha fatto l'ATAC? Era 4 al mese, adesso è diversa. È 20 l'anno, però è obbligatorio, farla annuale. Quindi io prima potevo decidere quali mesi non fare. Adesso no, adesso sono obbligato a farla annuale. Quindi, che cosa ha fatto l'ATAC? L'ATAC ha imposto a disabili ed anziani di andare nei municipi, dove aveva istituito degli uffici temporanei, per dimostrare che questa cosa non era più legata né alla disabilità né all'anzianità, ma al reddito. Quindi io dovevo portare, io disabile, io anziano, dovevo portare il mio ISEE e dimostrare di avere un reddito inferiore ai 20.000 euro. Quindi tutto quello che è legato a quelli che sono i nostri diritti, cioè sia per gli anziani che per i disabili, soprattutto ci sono state anche delle grandi battaglie per ottenere il diritto alla mobilità in una città che te lo impedisce, erano costretti ad andare nei municipi a fare delle file interminabili per consegnare questo documento. Questa cosa, date anche le proteste che ci sono state, l'Assemblea per le autoriduzioni ha organizzato in quasi tutti i municipi di Roma dei volantinaggi, delle azioni di comunicazione, delle azioni di disturbo a questa pratica. Non so dire se è grazie a questi interventi o no, che però questa cosa è stata tolta, quindi è stato ripristinato in qualche modo il diritto acquisito, non più legato al modulo ISEE, quindi ai 20.000 euro. Però è rimasto il fatto che io devo comunque devo comunque pagare l'abbonamento annuale. Per quanto riguarda invece l'aumento del biglietto a 1,50 euro e la possibilità negata ancora adesso, per esempio parlo a degli studenti fuori sede, cioè a chi non è residente legalmente a Roma, l'aumento, cioè quindi la possibilità di fare un abbonamento anche a chi non è residente, non c'è alcuna riduzione, cioè lo studente, come dire, romano, residente a Roma, ha diritto all'abbonamento per studenti. Lo studente calabrese, pugliese, che vive a Roma per studiare, non ha diritto a un cacchio, assolutamente. Gli spagnoli in questo momento meno che mai. Da oggi in poi gli spagnoli pagheranno 3 euro il biglietto dell'ARAC, perché insomma, anzi 4 euro, mi sembra giusto. E insomma, adesso per concludere un po' questo discorso, sono state fatte tante azioni all'interno delle metropolitane, sia dall'Assemblea che da altri soggetti che in qualche modo hanno fatto propria questa, questa battaglia, perché il Cirigone dentro le obliteratrici, a fare volantinaggio all'interno della metropolitana. La difficoltà che c'è adesso è quella di dare un seguito a queste anche dimostrazioni che sono state fatte, perché facendo le azioni di volantinaggio all'interno delle metropolitane, il consenso da parte delle persone che si rendono benissimo conto che ci stanno facendo pagare molto di più un servizio che di giorno in giorno diventa più scadente, e che hanno aperto le tre stazioni sulla B1, aperto per modo di dire, hanno un servizio, tre stazioni con ritardi di mezz'ora, cioè hanno stravolto un intero quadrante di Roma, eliminando autobus, eliminando il trasporto di superficie, che è quello di quartiere, che è quello che porta le vecchiette a fare la spesa, che è quello che collega le persone che si conoscono, per aprire tre stazioni della metro che ogni giorno danno mille problemi, sia di livelli di sicurezza, sia di livelli strutturali, ma di sicurezza anche per chi lavora all'interno dell'ATAC, per i macchinisti. Cioè, quello che sta viaggiando sulla nuova linea B1 sono mezzi che non sono assolutamente adeguati, sono mezzi che non sono stati testati. E poi l'ultima cosa, che su questa cosa dell'ATAC grida assolutamente vendetta, è quanto spende l'ATAC. Cioè, l'ATAC ha una situazione debitoria spaventosa. L'ATAC è l'unica azienda di trasporti in Europa che ha 2 impiegati per ogni autista o tecnico manutentore. Cioè, noi mandiamo in giro una flotta di autobus che di fatto esce ogni giorno dai depositi in modo assolutamente illegale, cioè facendo carte false escono gli autobus dai depositi, perché sono tutti rotti, cioè la manutenzione interna è stata sostituita da un subappalto a delle cooperative esterne fatte dagli stessi lavoratori che prima erano interni all'ATAC, e gli autobus escono danneggiati, gli autobus non rispettano i minimi requisiti di sicurezza, e il management dell'ATAC si mette in tasca ogni anno 600 milioni di euro. 600 milioni di euro vanno nelle tasche di decine e decine di manager e decine e decine di quadri intermedi che non servono assolutamente a niente. L'importanza di, poi il motivo per cui c'è stato questo intervento oggi qui, è che chi propone in una città come Roma una mobilità che è radicalmente diversa rispetto a quella che ci impongono, rispetto alla mobilità delle automobili, deve necessariamente saldare, come dire, questa lotta, queste esigenze, con quelle anche di chi non ha grande coscienza e consapevolezza di questo. Perché io stesso, cioè, cerco di girare il più possibile in bicicletta, però so troppo da una gamba, sono costretto a piedi, non ci posso andare, sono costretto ogni tanto a prendere l'automobile. Ma io vorrei una città in cui l'utilizzo della bicicletta fosse compatibile, non solo compatibile, fosse auspicato da parte dell'amministrazione con l'utilizzo dei mezzi pubblici. Ma mezzi pubblici che ormai hanno un costo spaventoso, 1,50 euro per 100 minuti, quando in 100 minuti è raro che riesco a passare quelle due pagine di tutta città. Cioè, in 100 minuti sto incastrato a Porta Maggiore. E quindi, cioè, quando andiamo a reclamare, come dice giustamente quando, spazio per il pubblico, lo spazio per tutti, lo spazio condiviso, quando andiamo a reclamare le strade per le nostre biciclette, non come fanno salvaciclisti che gli hanno negato la piazza San Silvestro, che tutto è tristezza, andatevi con le biciclette. Ci siamo andati, speriamo. Quindi su questa cosa dell'ATAC, anche chi utilizza la bicicletta può permettersi di utilizzare la bicicletta per la mobilità totale in questa città, però credo che siano veramente pochi quelli che si possono permettere una mobilità totale in bicicletta, di prestare anche attenzione a questo elemento, trasporto pubblico, perché l'idea di città che stanno portando, che ci stanno imponendo, è quella che se abiti in periferia te devi andare a fanculo il più lontano possibile, va, sei a Borghesiana, va a vivere ai Castelli Romani, sei povero, vattene fuori dalla città. La città deve essere un salotto per far girare i sub, per far girare i bus turistici, e se tu non c'hai i mezzi per permetterti questo, fuori dai coglioni. al Pigneto l'abbiamo visto con l'espulsione, l'altro fenomeno che diceva qua, quello della gentrificazione, cioè dei quartieri che sono stati rivalutati non dal pubblico ma dal privato, dalla speculazione, chi ha meno deve essere espulso. Al Pigneto è successo con i senegalesi, piano piano succederà con tutti noi, che affittiamo magari a prezzi decenti alcune case, verremo espulsi da questo quartiere, verremo espulsi da questo quadrante di Roma, sempre più lontano, e sempre più lontano sarà impossibile utilizzare dei mezzi pubblici per venire a Roma, per fruire della città. Senza il sub rimaniamo alla borghesiana. Grazie. Grazie Dario, tra l'altro ci sono stati un sacco di spunti interessanti citati da Dario, in particolare questo ultimo, come dire, è una situazione che si ripete nella città almeno dal 1870, se non ho capito male, nel senso che tendenzialmente a ondate la popolazione viene espulsa dai quartieri più centrali per essere spinta nei quartieri più periferici, che vengono in questo modo rivalutati e quindi diventano a loro volta, diciamo, appetibili dai palazzinari per farci abitare in una classe sociale che potremmo definire borghesia, forse, non so se ci abbia più senso definire in questi termini, e comunque i ceti popolari vengono sempre più espulsi all'esterno. Vabbè, poi noi ci andiamo in bicicletta tutti i giorni, insomma, ci attraversiamo pure la città, però certo è difficile convincere la gente che questa cosa sia possibile, poi non sempre oggettivamente è possibile. Comunque mi sembra un elemento che è uscito fuori con la massima evidenza nei vostri interventi è quello della contrapposizione tra pubblico e privato, e come privato inteso in termini proprio strettamente monetari, proprio, cioè in termini di profitto individuale. E quindi a questo punto, insomma, la domanda viene da sé, diciamo, qual è il senso? Cioè, è ancora possibile pensare a relazioni, a una città in cui le relazioni non siano un'idea dal denaro, oppure un'utopia? Grazie. Questo era per Dario. È giustissimo attaccare gli economisti perché sono dei, da un lato si danno le arie dei grandi tecnocrati, dall'altro non hanno mai risolto un accidente, per cui va bene, attacchiamo gli economisti. Tra l'altro io non faccio parte della categoria, ma sono un economista politico, vengo dalla tradizione non dominante, ma non è questo il punto è che non so se purtroppo per fortuna, perché è una cosa che è messa qua dal 1977, voi siete tutti ragazzi, io invece sono vecchio, ma è dal 77 che c'è una cosa che sta qua, è la ragione per la quale ho continuato a studiare e a fare la vita che ho fatto, è esattamente che c'ho questa cosa qua dal 1977. E non ascoltate chi ne fa la storia adesso, che sono i vecchi di potere operaio, i marxisti, i leninisti, che credono di potervi ammollare storie che non sono state. Ma non è questo il punto che voglio discutere qua. Quello che voglio discutere qua sono un paio di punti piuttosto fondamentali per risposta a quello che è stato detto. Primo punto, quello che ha detto Dario. C'è una illusione assoluta, è condivisa dagli economisti dominanti così come da chi si oppone al capitalismo. Quando parlo di economista dominante parlo di economisti del libero mercato, quelli che credono che l'economia si riduca a quelle derivate parziali matematiche che tutti impariamo nella facoltà di economia. Bene, c'è questa illusione che il capitalismo si basi sull'efficienza capitalista. Bene, non è vero. Se il capitalismo fosse capitalisticamente efficiente, finirebbe. Perché all'equilibrio finiremmo in quello che John Stuart Mill nel 1800 chiamava lo stato stazionario. Quando tutte le forze di produzione, tutte le risorse sono impiegate nella maniera più efficiente secondo quello che dice la teoria del libero mercato, che succede dopo? Siamo bloccati. Siamo in uno stato stazionario. Allora, prima illusione da cancellare. Ora, io potrei parlare per 10 ore di questo, ne parlo a libitum fino a che non mi vedete crollare. Però attenzione, prima illusione. Se il capitalismo funzionasse capitalisticamente, finirebbe come stato stazionario. Perché se tutto funzionasse in nome del profitto, in nome dell'efficienza capitalista così come è descritta nelle teorie capitaliste che si insegnano nell'economia dominante, noi ci troveremmo in quella che John Stuart Mill, Karl Marx, Adam Smith chiamavano lo stato stazionario, dove non si muove più niente. Quella che viene, tanto per dire una parola comune, la crescita, non accadrebbe. Non ci sarebbe crescita, non ci sarebbe profitto. Carina, eh? No, però se ce lo magari spiegacelo. Non proprio un'ora, però se ci spieghi un attimo. L'essenza della teoria cosiddetta dominante dell'economia sta nel fatto che si deve raggiungere il cosiddetto equilibrio. Ed è un'essenza che è sbagliata in sé e lo sanno tutti. Quando ti insegnano, e io sono un insegnante di economia, l'economia dominante, ti dicono all'equilibrio in cui la curva dell'offerta che va, guarda caso di qua, la curva della domanda e va, guarda caso si incrocia con quell'altra, si incrociano ed è un punto statico. Che succede dopo? Questo non lo sa nessuno. Nessuno. Ci ha provato Schumpeter, ci ha provato Silo Slabini, ci ha provato Kaleski, ci ha provato Pasinetti, però non c'è una soluzione, tutto si blocca, un equilibrio esterno. Allora se il capitalismo funziona, finisce. L'essenza del capitalismo non è l'efficienza capitalista, ma è il fatto che il capitalismo è sempre costantemente sottoposto a un'emergenza continua per la quale bisogna raggiungere quell'efficienza che non si raggiunge mai. La causa per la quale ci fregano dicendo vi sottoponiamo a tutte queste fatiche perché la crisi, perché l'efficienza, perché il deficit statale, perché la concorrenza nazionale e internazionale dei marziani e chi vi viene in mente, bene, è tutta una balla cosmica. Perché non c'è economista dominante che non sappia che il capitalismo finisce quando raggiunge la massima efficienza. Allora l'essenza delle relazioni capitaliste è determinata dal fatto che dall'illusione alle classi antagonistiche che un antagonismo sia il contrario dell'efficienza capitalista, mentre è la natura per la quale il capitalismo continua ad andare avanti, perché è sempre imperfetto, perché deve sempre inseguire questa perfezione. Primo punto, poi magari ne parliamo a lungo come volete, io sto qua a libito. Primo punto, sembra una cosa nuovissima, non detta nessuno, no, ripeto, l'ha detta Adam Smith, l'aveva detta John Stuart Mill da un punto di vista liberale, l'aveva detto il povero caro Karl Marx da un punto di vista altro di questo. Allora attenzione, adesso vado a mollarvi un'altra cosa tristissima, però ripeto, è dal 77 che ce l'ho qua. Quelli più vecchi si immagino. Lotta di classe e dialettica. Allora, la vulgata marxista, che è la vulgata che è passata attraverso le mani di Engels, Plekhanov, il nostro caro Lenin e naturalmente Gramsci, Togliatti e tutti gli altri, ci racconta che la lotta di classe è un concetto dialettico, nel senso hegeliano volgare. Allora mi soffermo un attimo, mi scuso con quelli che credono che la filosofia non serva, ma guardate la semplicità di quello che sto per dire. Che cosa significa dialettico in senso hegeliano? Aggiungo volgare, ma questo solo per quelli che sono molto esperti in filosofia. Significa, io ho una cosa e ce n'ho un'altra, che si propone come alternativa alla prima. La dialettica hegeliana vuol dire che l'intersecarsi L'interrelarsi di queste due cose mi provoca un terzo risultato, attenzione, che contiene ambedue le determinazioni. Cioè a dire, e qui l'esempio non è mio ma è di John Rosenthal, io ho Maradona che è piccolo, ma Maradona è piccolo in quanto contiene anche la determinazione grande. Mentre Chamberlain, che era un uomo alto, contiene anche la determinazione piccola. Solo che in Maradona si esprime la parte piccola e in Chamberlain la parte grande. Questo concetto della dialettica significa una cosa semplicissima. Quando Marx ci dice, come ci dice, che le relazioni capitaliste sono dialettiche, ci sta dicendo che le relazioni capitalistiche funzionano dialetticamente, nel senso hegeliano volgare, che non consente rotture con scomparsa. Non va via niente, non muore niente. E non si arriverà mai alla situazione di capitalismo perfetto. E vivremo in questo eterno presente nel quale la mediazione sostituisce la rivoluzione. Quando i leninisti vi raccontano, ripeto, per quelli più anziani, quando i leninisti vi raccontano che la lotta di classe e l'attività politica serve a cambiare il capitalismo, vi raccontano una palla. Perché la lotta di classe, se il capitalismo è dialettico, serve a preservare il capitalismo. Se non la fanno gli operai, la fanno i padroni. Se la fanno i padroni, gli operai la fanno perché si sentono costretti a farla. Il capitalismo si muove dialetticamente, come diceva Marx. Ma come fai a trascendere il capitalismo che è dialettico con la dialettica? Non lo puoi fare. Sembra una situazione disperata, invece, nella nostra, adesso lo dico in termini elevati, eccetera, lo potrei dire in termini più semplici, ma ripeto, dal 77 ciò qua sono. Quanti anni sono dal 77? 35 anni. Ci ho passato, ci ho fatto due master, un dottorato, ci ho scritto non so quante cose sopra e mi è rimasta. Allora, la soluzione è semplicissima. C'era un tizio chiamato Immanuel Kant che parlava di opposizione reale, in cui una cosa elimina l'altra. Una sparisce, l'altra rimane. Non c'è interazione. Adesso sono contento che non c'è nessun marxista ortodosso tra di voi, se non male però aggredito dicendo ma come? Un uomo così mite, dall'apparenza mite, c'è pure una gamba di legno, non è in grado di fare violenza, dice questa cosa così violenta. No. Torniamo alla relazione dialettica. Che cosa c'è dentro la relazione dialettica che è tipico, di un tipico intrinseco della relazione dialettica? C'è la violenza reciproca. Quelli di voi che hanno ricordi di Hegel. Hegel che cosa dice? Dice la storia avanza dialetticamente. Ci sono alcune cose che non fanno parte della storia e che spariscono. Con la delicatezza che lo caratterizzava, Hegel diceva il banco di macellaio della storia. Per la quale tutte le cose che non facevano parte dell'inevitabile interazione dialettica della storia vengono trucidate e eliminate. Perché la relazione dialettica è una relazione che Hegel configura come Macht, potenza, su un soggetto passivo da parte di un soggetto attivo che lo trucida, lo distrugge. Attraverso un Krieg, come diceva Hegel. Allora, le relazioni dialettiche del capitalismo sono relazioni intrinsecamente violente. Questa violenza si esprime attraverso la relazione capitale-lavoro salariato, della quale il capitale costringe il lavoro salariato all'estrazione del surplus, si esprime attraverso la relazione della dimostrazione per la quale noi andiamo tutti a dimostrare, ci prendiamo le manganellate e ce ne torniamo a casa. Sono tutte relazioni intrinsecamente dialettiche, tanto dialettiche e tanto violente, che il buon Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, ha detto, ma certo, allora usiamole a modo nostro, indirizziamo il proletariato a prendere le botte, sono la maggioranza, vinciamo. Se non sono la maggioranza, facciamo il colpo di Stato, l'ho fatto Lenin, l'ho vinto, e faccio la rivoluzione bolscevica. Cioè a dire, attenzione, quando vi parlano di relazioni dialettiche e di mediazione, vi parlano di una attività intrinsecamente violenta. Prendiamo un esempio tipico. Io so con assoluta certezza, perché avendo, quando mi hanno tagliato la gamba stavo più là che di qua, che Dio non esiste. Già questo che ve lo propongono come credere e non credere, no? Come se, dice, quello non crede è come quello che crede alla magia nera, ai marziani, al calendario magia. Dio non esiste. Io lo so con certezza. Però c'è qualcuno tra voi che sa, che crede con fermezza che Dio esista. È possibile una mediazione? Certamente no. Uno dei due è offeso. Uno dei due ha torto marcia. È vero, non si può dimostrare chi, però uno dei due ha torto marcia. Ci sono oggettive relazioni nella vita reale che sono opposizioni reali. L'attività mediatrice è un'attività di intolleranza. Non c'è mediazione possibile tra chi crede in Dio e chi non crede. Questa è intolleranza. Questo mondo nel quale viviamo, il mondo post-77, in cui cani e porci, ve lo dico con delicatezza, in cui cani e porci vi propongono una continua mediazione, vi propongono una continua intolleranza verso l'altro. Allora, torniamo alla nostra attività. Di politici, noi stiamo qua, ci opponiamo al capitalismo, facciamo attività politiche contro il capitalismo. Se sono dialettiche, noi stiamo preservando il capitalismo. E stiamo preservando questa atmosfera di violenza intrinseca e di intolleranza, che non è nostra, di oppositori al capitalismo, ma è del capitalismo. E tanto... sembra una cosa, ho nominato grandi filosofi, ma è molto semplice, spero che sia chiara a tutti, se non è chiara ditemi. Allora, l'idea è questa. Io quando avevo la gamba ero ciclista anch'io. Adesso se mi butto di qua vado per terra e non mi fido a girare, specie in un posto come Roma, parlando di autobus. Avete notato che succede negli autobus? Arriva l'autobus, non è percepito come servizio pubblico, perché se fosse percepito come servizio pubblico, tutti aspetterebbero con calma di entrare uno alla volta. Ma è percepito come una cosa che se non la chiappi sei fregato. Allora entrano prima tutti quelli più robusti che possono mandare via gli altri e poi chi riesce degli invalidi, per cui i più robusti si siedono e gli invalidi stanno in piedi. Prego, finisco questo concetto, poi la fai, ti piace? Un secondo solo. Questa è una relazione dialettica di violenza pura, alla quale si opporrebbe una relazione di tolleranza, cioè identificazione dell'alterità. Sei altro, io che ci posso fare? Se la mia forza nel non credere in Dio è identica alla tua in credere, io tollero. Anzi, ti ammiro. Allora, è così che va ripensata l'attività politica anticapitalista. Non come una relazione con il capitalismo, ma come una rottura. Perché quello che noi vogliamo, in primo luogo, è la non violenza e la tolleranza e la solidarietà. E questi sono tre concetti non capitalisti. Mi scuso l'interruzione. Vieni, vieni qui, se no non faccio una domanda. Io devo fare una domanda, Luciano, secondo te se questa violenza che dici di trattenersi di entrare nell'autobus, perché la vedi legata al capitalismo e non piuttosto legata proprio alla natura umana, predatoria, di essere di prevalere sull'altro, cioè la tigre, perché non è solo questa. Io vengo dalle scienze naturali, non vengo dalle scienze economiche. Gli animali non hanno una natura predatoria. Gli animali hanno una natura non predatoria. Io non ho mai visto, non conosco una relazione animale che sia predatoria. Conosco il fatto che il falco prende il topo, ma non è predatorio ed è del tutto priva di analogie con la relazione degli infami che spingono le comitate e rende i cividi più robusti entrano nell'autobus per prima, che è tipicamente umana ed è tipicamente derivante dal fatto che ci sono tutta questa serie di percezioni sbagliate che dicono, vabbè, che devo fare in questo mondo schifoso? Tanto vale che mollo una comitata in faccia all'individuo in sedia a rotelle e lo butto giù da palazzo. Che è da un lato del tutto logico e comprensibile in senso hegeliano. Prego. Hai detto che, diciamo, che col capitalismo si deve arrivare a una rottura anche non violenta. No, solo la rottura col capitalismo è la non violenza, il capitalismo è la violenza. Ok, giustissimo. Però mi chiedo, no, ma c'è un sistema economico collettivo quello capitalista che è come fai a romperlo in maniera non violenta? Perché comunque è un sistema con un'inerzia, cioè proprio l'inerzia, capito? Hai ragione, no, bellissima domanda, giustissimo. Giustissimo, e mi scuso anche con lui perché non ho risposto alla sua domanda. Chi lavora all'interno di questo sistema anche sul verde? Poi come... Giustissimo, e mi scuso anche con lui per non aver risposto a questa domanda. Allora, il valore. Che cos'è il valore capitalista? Il valore capitalista è niente di più e niente di meno che un rapporto aritmetico, per il quale io posso identificare le cose come una relazione capitalista. Adesso ve lo potrei dire in questi termini, sono i termini neoclassici dominanti dell'economia liberista, ve lo potrei dire in termini marziani, che sono i termini dell'alienazione. Forse è meglio che mi spieghi con un esempio. Quando io feci il primo anno di dottorato in Nord America, avevo un professore, scusate se rido, che credeva di essere marxista. Ed era un, all'epoca si diceva, rational choice marxism, cioè il marxismo della scelta razionale, che si basava sulla, tra parentesi, loro chiamavano se stessi, lasciamo passare le tecnologie capitaliste, questa è un'altra azione di violenza, si chiamavano, sorridete pure, Marxismus sine stercore tauri, che è un neologismo latino che vuol dire marxismo senza cacca di toro, perché cacca di toro in inglese, bullshit, vuol dire cretinate. Allora loro si qualificavano come marxisti senza cretinate perché utilizzavano l'atteggiamento microeconomico dell'economia dominante, la quale atteggiamento microeconomico capisce tutto in termini di utilità individuale. Per cui questo simpatico giovane, cioè aveva 42 anni, fece un lavoro, scusate se rido, nel quale spiegò in termini di utilità individuale, cioè di profitto, le relazioni nella polis ateniese. Nella polis ateniese. Allora, non c'è bisogno che io vi ricordi, ma questo è un'altra cosa che mi rudono, nella polis ateniese l'individuo era caratteri, ok, mo la faccio veramente con cattiveria perché questo mi rode. Chi era Remmida? Io lo chiedo sempre nelle mie classi, chi era Remmida? Perché è rimasto nella storia? Allora tutti mi dicono era quello che trasformava le cose in oro. Perché trasformava le cose in oro? Qualcuno lo sa? È sempre la solita storia. Perché aveva un valore? No, la risposta è molto più semplice nell'antichità. La leggenda, l'edizione. Voleva, eh? No, perché voleva la leggenda. Perché l'aveva chiesto? Perché l'aveva chiesto agli dei? Avete mai visto le figure di Remmida? Non è mai capitato? C'è un cappello tipo vescovo. Perché c'è questo cappello alto alto tipo vescovo? Perché aveva le orecchie da somaro. Perché era stupido. Essendo stupido, gli dèi gli avevano messo le orecchie da somaro, che lui nascondeva col cappello da mitra. E in quanto stupido, dava valore a loro. Questa è la differenza con l'epoca capitalista. Nell'epoca antica, pensate alla madre dei Gracchi, quando l'amica sua va a casa sua e gli dice i gioielli, l'oro, eccetera, e lei manda a chiamare i bambini, dice questo, è il mio tesoro. Pensate a tutte le... Io adesso... lo faccio anche in maniera molto erudita, ma lo faccio apposta, perché è tempo che la smettiamo di lasciare l'erudizione a chi non la sa, a chi la usa a bacca. Leggete Solone, leggete Ognide, sono gente, i lirici greci del VI, V, IV secolo a.C., che sono disgustati dalla presenza nella polis di Atene di gente che valutava come ricchezza oro, gioielli e pietre preziose. Il denaro non aveva questa funzione fino a che la solita manica di infami gli ha dato questa funzione, cioè gli italiani. Qualsiasi fregatura orrenda che il mondo ha avuto l'hanno fatta gli italiani, i banchieri fiorentini, che hanno inventato l'idea interesse sul denaro, che era proibita in ambito cattolico, però appunto, siccome gli italiani conoscono la Chiesa Cattolica benissimo, hanno inventato le banche. Però, ecco, questo sia chiaro. Il capitalismo esiste in quanto esiste l'economia monetaria. L'economia monetaria esiste in quanto esiste una limitazione mentale che ci consente di pensare in termini monetari tutto quanto. E quindi, qualsiasi cosa noi stiamo facendo qua, io vi assicuro che un qualsiasi economista potrebbe trasformarla in una quantità monetaria. Sia la quantità di birra che beviamo, sia il tempo che noi sottraiamo ai nostri impegni lavorativi per stare qua, tutto è monetario. Ma adesso vi dà l'idea dell'idiozia della cosa. È un calcolo aritmetico. Invece vi dite, lo prendiamo sul serio. Dovremmo riderci. Semplicemente, dite. Sicuro che si può fare. Noi stiamo qua. Un economista verrebbe qua e troverebbe 6, 7, forse 8, 9, 10 maniere di misurare economicamente la nostra presenza qua. Se non altro perché molti di noi non usano i barbieri. E questa è la risposta a quello che dice lui. Allora, il problema qual è? L'attività politica come si fa? Se la facciamo come movimento dialettico entro il capitalismo, uno, siamo condannati alla violenza reciproca, due, ovviamente, stando dalla parte dei deboli, siamo condannati a essere le vittime della violenza. Allora, l'idea è questa. Pedaliamo, andiamo in bicicletta. Punto. Perché quello, adesso non voglio tediarvi a lungo in questo sistema, dietro questa storia c'è un fatto, uno, semplicissimo, che non è che l'ho inventato io, non è... Lo si trova in Marx, lo si trova in Bakunin, in Kropotkin, lo si trova in John Stuart Mill e lo si trova persino in Adam Smith. Cioè a dire, l'unica cosa che il capitalismo non riesce a tollerare è l'individualità. Se esiste un'economia dominante, quelli di voi che hanno studiato un minimo di economia si ricordano che l'individuo economico è una frazione di una massa omogenea. Gli individui economici sono identici uno all'altro. Ecco, credo che questa sia la conclusione migliore. L'unica opposizione che possiamo fare al capitalismo è l'opposizione individuale. Senza il proselitismo del ministro, ma 1, 2, 3, 4, 5, mano a mano, 1 più, 1 più, 1 più, questa storia finirà. Ma è una questione intellettuale, di individualità e soprattutto di saper ridere in faccia a chi ci racconta. Vale. Grazie. Grazie, adesso penseremo settimane a queste cose che abbiamo sentito adesso. Abbiamo fatto il pieno. Ci abbiamo ancora un po' di tempo, credo, quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a qualcuno, insomma, di loro, di noi, lo faccia pure. Siete traumatizzati? Fate queste facce, Ma io volevo solo esprimere dei pensieri, una domanda. Adesso sono piena di situazioni, quindi probabilmente cercherò di farmi capire al meglio. Va, più al microfono. E qua, Laura, vieni. Che si sente? Io su molte cose non ho studiato economia, ho studiato pochissima filosofia, però tra varie esperienze molto, tra quello che hai detto, è molto zen la cosa, altro che economia, è proprio zen, è proprio semplice, o sei dentro o sei fuori. Non c'è la via di mezzo perché sennò resti schiacciato. Quindi è veramente semplice poi in realtà il concetto. Il punto però che mi viene da a cui penso è quando ti viene impedito. Perché il problema è vero, noi facciamo spesso delle scelte politiche radicali per cui diciamo va bene, mi interessa fino a un certo punto perché mi interesso, io diciamo mi tiro fuori, rientrare per cercare di convincere la gente, coscientizzare la gente a fare un percorso poi personale di pensiero e quindi uno entra, però spesso ci viene impedito di poterne uscire fuori, perché è chiaro, no? Poi, e quindi è lì che secondo me a un certo punto si trova il, diciamo, la scintilla, il cortocircuito dentro di noi, perché molti di noi potrebbero starne totalmente fuori da delle dinamiche economiche, commerciali che appartengono a tutti e me, però purtroppo è difficile realizzarle. E spesso penso per esempio a come, e questo vabbè non ho soltanto portarle, come far capire a delle persone che fanno un determinato tipo di lotta che non basta solo fare quella lotta ma bisogna anche cambiare il proprio stile di vita. Ora faccio una parentesi. Tutto il movimento trasversale che sta in Val di Susa, che sono 20 anni, che sta lì, eccetera, io me ne sono interessata, me ne sono occupata, mi sono letta tutti i libri che hanno fatto, eccetera, però lì è bellissimo vedere il movimento trasversale dagli anarchici ai cattolici agli imprenditori solidali, a tutta una serie di categorie che qua a Roma non c'è, cioè qua a Roma ci stanno i muri tra una categoria e l'altra. Lì è stupendo perché si parlano, hanno una motivazione in comune e vanno avanti e sono 20 anni che là non si passa, mentre qua a Roma fanno così e passano i treni. E perché ci stanno i muri da abbattere, ma questa insomma è un altro discorso. Ma la cosa è che, come dici tu, bisognerebbe poi far capire a un certo punto a alcune categorie di persone che non basta solo riacquistare i diritti che ti hanno tolto, va anche cambiato uno stile di vita e te devi, no, in qualche modo far... quindi là sta un po' la crisi che secondo me noi viviamo. Come attuare una coscientizzazione in delle persone che non fanno altro probabilmente che accendere la TV e avvelenarsi in questo senso. Però era solo un intervento così di riflessione. Questo è un problema vero in generale. È un problema vero in generale. Ed è il problema di vivere tutte le cose semplici. Ma non è il problema tanto di convincere gli altri, è quanto che se fai una cosa semplice non se ne accorge nessuno. Io sono 20 anni che faccio un economista, tra gente dominante nessuno si è accorto. Dicono che sono. Non ci fanno caso, non li conto. E io quello che dico qua, lo dico nelle classi, dove insegno in qualsiasi istituzione io abbia insegnato. Non se ne accorge nessuno. È vero, questo è un problema. però che volete fare? Dai, gli anziani possono parlare al microfono. No, vabbè, cioè io magari sono comunista da una cifra, però se il discorso di anticipetta non c'è carne in testa adesso. Sicuramente almeno girate, signore, se non ti si sente. Dico, ognuno di noi ha le sue contraddizioni, no? Cioè, proprio perché stai in sistema, cioè, da solo è difficile. Io, per esempio, nonostante mi reputo comunista, non vorrei essere il tuo professore, nonostante mi reputo comunista da sempre, questa cosa, per esempio, dell'ambiente e della bicicletta non c'è fa in testa adesso, arriveranno da per cui, cioè, bisogna fare i conti poi anche con le contraddizioni del singolo. Io penso che quando ci si riferisce a una lotta collettiva, no? Cioè, si può solidarizzare o si può reputare positiva una lotta anche con le tue contraddizioni, insomma. Cioè le tue contraddizioni le puoi superare magari nella lotta stessa. Cioè non credo che ognuno di noi debba essere l'uomo nuovo, no? Che auspicava il cielo da subito per cambiare il mondo, perché sennò non si fa. Cioè, lo fai anche con le tue contraddizioni. Cioè, io a volte c'è la plastica, ma la differenza. Mi succede? Ho capito. A volte... Allora, non hai capito cosa ho detto. Tu parli di contraddizioni dialettiche. No, io parlo di... cioè, queste sono contraddizioni dialettiche che sono... Però se posso dire no, cioè, se me, and the winner is... quando uno, cioè, si accorge di essere in certe cose in contraddizione, dice lui, cioè, non è tanto quello, perché quando sei in contraddizione, no, ne soffri e se puoi la superi. Cioè, il problema è come la ragazza che... Cioè, cioè, la lotta più efficace che puoi fare è cambiare lo stile di vita. Però mi chiedono in che proporzioni effettivamente, cioè, magari anche chi si rende conto che bisogna cambiare lo stile di vita riesce a farlo, rispetto a chi non se ne rende conto non gliene frega niente. Cioè, c'era proprio quantitativamente. Ma come cazzo fai a cambiare lo stile di vita senza fare la rivoluzione? È quella la cosa. Cioè, ma che c'è che è il Messia? Che c'è che è il Messia? Che potevo dire io? Così, la riesci a... Che ve lo devo dire io? Che cercate il Messia? Ce n'era uno, si chiamava Vladimir. Vabbè, ma ai negozi ci andrei a comprare cose. Ma questo grido è diverso da una differenziata. Infatti, questo, cioè, la differenza di contraddizione tenere conto che è superata, però il problema è quantitativamente chi è che c'è? Nei vestiti l'affisso critico come lo fa? No, faccio. Allora, non ti puoi, non puoi pensare che dentro questo mondo qui puoi essere diverso da quel mondo di relazione. Cioè, te a te stesso non puoi dialogare dentro questo mondo, se no impazzisci, che era quello che mi dicevo. Non puoi pensare che all'interno di questo mondo sei diverso, sei coinvolto, se no finisci come gli amici miei che hanno commesso suicidio, perché non ce la fai. È proprio così. All'interno del sistema capitalista o te ne vai o rimani. Vabbè, ma tu non dove vivi? Non vivi all'interno di questo sistema. O rimani o te ne vai. Però è interessante anche essere consapevole della situazione. O commetti suicidio o te ne vai fuori dal mondo capitalista da un altro modo. Non c'è un altro. Una volta risolto questo problema interno tuo, provi a essere una persona cattiva che cerca di rompere il mondo con me. Cioè, io da 20 anni che non c'ho una macchina e c'ho la patente da 92. La prima cosa che ho avuto a 18 anni la patente. Mi serve? No. Non mi è mai servito per nulla interessante. Boh, anche in ospedale sono andato in bicicletta, ma perché sono testato. Però poi ne ho altre contraddizioni. E sono consapevole di quelle contraddizioni mie, perché non ci riesco a essere un essere veramente fuori dal sistema. C'è un computer che non mi piace, però contemporaneamente mi piace. C'è una bicicletta che non mi piace, ma è fatta da carbonio, di plastica. Ma mica la plastica si fa dal campo senza contaminare, capito? Dico per Tony antiforatura. Più o meno sono fatto che sto dicendo io. Però io non sono un rivoluzionario. Ma insomma, sono una persona che prova di essere al minor grado possibile, non contraddittorio. No, ma sono consapevole che non riesco a fuggire da un sistema. Scusate, io sarà che io sono un vero romano di Roma. Come romano di Roma non sono stato educato religiosamente. Io non so se sono cattolico, ebreo o ateo. Non lo so, ma sono romano di Roma. Ma queste sono cose cattoliche, la vita non va alle lacrime, l'uomo è imperfetto. E beh, questo è parte del discorso. Che siamo tutti imperfetti è parte del discorso. È un luogo comune, ma forse è vero, non lo so, ma chi se ne frega. Cioè, e perché ci importiamo ad andare in bicicletta? Perché non ci vale andare con le mani. Perché se io se riesco ad andare fuori della FIA, fuori del sistema A, fuori del sistema controllo della motorizzazione romana, ci sto a riuscire a non essere cittadino in un paese europeo. Perché adesso sono legale e tra un po' diventa rimane, però se adesso mi chiede di cerca qualcuno, non abita in Spagna, non abita a Roma e non c'ho la macchina, io a Roma vado con i documenti spagnoli che non esistono e in Spagna vado con i documenti italiani che non esistono. È il mio modo di essere nato, è il mio modo di prendere. Posso dire una cosa? Però poi ci casco con il mio giornale, ci casco con altre cose, cioè provo e cerco le mie scappatoie, provo in ciclofficina tutte le settimane a costruire, a fare costruire un mondo diverso, diverso di quello che esiste, cioè a parte parallelo. Io do due ruote, due pedali e faccio che le persone se ne vanno a casa senza essere controllate e riesce a fare una realtà diversa. Sì, però con la mia politica di vita, sì, scusami. Scusate, ma stiamo cercando di capire se c'è la possibilità di essere coerenti all'interno di questo sistema? Perché secondo me, cioè, come dire, il contesto è quello che è, secondo me già è tanto, se noi siamo consapevoli del tipo di ruolo che abbiamo all'interno del sistema, no? Credo, cioè, è da però è da quello che si può partire, secondo me, per rompere le cose che poi rompe. Mi esprimo così male? No, neanche la consapevolezza? No, ma no, il problema è vero. Voi immaginate che adesso, vi ricordate nel Medioevo c'erano gli stiliti, quelli che si mettevano in cima a una colonna e facevano la vita alternativa. Ma immaginate che arriva lo stilite, ma immaginate che arriva Gesù Cristo. Ma voi credete che lo riconoscerebbero? Non lo riconoscerebbero. Per cui non è che dovete pensare che facendo una vita diversa tutti vi guardano e fanno per bacco, qui c'è una persona che fa una vita diversa. Perché se è vero tutto il ragionamento che ho fatto e poi ho risparmiato tutto il resto, se no, ve l'ho detto, io posso parlare fino all'infinito perché, ripeto, c'è dal 77 che ce l'ho qua, dovunque vado lo dico. Però se è vero il ragionamento generale, allora il capitalismo non si configura, come diceva Marx, come un ammasso di merci. Non si configura, come dicevano gli economisti dominanti, come uno scambio dovuto all'utilità e al bisogno, ma come un'intellettualità dominante, limitata e limitante. E allora può calare Gesù Cristo, può calare Buddha, non se ne accorgerebbe. Ma la risposta a tutto questo è beh, qui non stiamo. C'è un problema serissimo che abbiamo è, come direbbe Marx, tra il particolare e l'universale. Allora, i marxisti, i comunisti ortodossi si fanno forti dell'universale dicendo l'universale non mi capisce. La mia risposta è beh. Cominciamo a fare le cose diverse. Essimo diversi, lo dico in romanesco. No, scusate, voglio dire altri, non diversi. Essimo altri invece che diversi. E durante alcuni passaggi del tuo intervento mi viene in mente la faccia che fanno la stragrande maggioranza delle persone che vengono a cercare. Mi veniva in mente la faccia che fa la stragrande maggioranza delle persone che viene in ciclofficina a farsi una bicicletta, e tu gli spieghi che noi non diamo un valore economico, non facciamo quel passaggio aritmetico per cui la bicicletta vale più dell'altra o quel pezzo di cambio vale più dell'altro, no? In questo modo noi cerchiamo di essere diversi senza stare a pensare se siamo coerenti al 100%, al 75%, al 50%, no? In questo modo cerchiamo di essere alternativi al sistema. Noi non assegniamo un valore a un pezzo, a una bicicletta, non facciamo le addizioni. Per noi quello è un mezzo di trasporto che è risolutivo rispetto a alcuni problemi che ti dà lo stare per strada, lo doverti spostare o il biglietto a 1,50 piuttosto che il servizio che ti dà l'ala, piuttosto che avere una macchina, che costi c'hai una macchina. E noi quello è un mezzo di trasporto, quella lì ha lo stesso valore di quell'altra ed è in questo, almeno per me personalmente, sarebbe il mio cambiamento di stile di vita, perché un'automobile ce l'avevo, l'ho tolta, mi sono presa una bicicletta, magari non ho stravolto tutta la mia vita, ma quel pezzetto lì l'ho cambiato, e a me, scusatemi, a me mi basta. Poi cerco di spendere parte di quello che mi è possibile, insomma, poi parte del mio tempo serve a avere un reddito, sta dentro al sistema capitalistico, perché parte del mio tempo serve a guadagnare il reddito per mangiare, fare una casa, un tetto, e questo ci sto dentro, non c'è niente da fare. Poi altri problemi me li risolvo in un altro modo, senza stare a pensare a quanto costa. Scusate, a me questo mi basta. Poi magari posso crescere, posso cambiare altri pezzi, no? Posso pensare appunto al consumo dei miei vestiti oppure al cibo che mangio, dove vado a comprare, come viene prodotto. Penso che una cosa alla volta si può pure farsi questo ragionamento, senza dover essere per forza al 100% coerenti. No, ma io stavo dicendo proprio... Ma non ce l'ho con te io! Ma ti sono girato le spalle! Tutto qui, insomma. Si può cominciare pure un pezzo alla volta. È quello che stavo a dire. No, io continuo a pensare che il discorso di un pezzo alla volta sia totalmente sbagliato. Questa è come la barzelletta del padrone del cane, no? Dice, c'ha il cane boxer che gli devi tagliare la coda, però c'ha pietà del cane e gliene taglia un pezzetto alla volta. Tutto insieme. Il tutto insieme, ripeto, io non, qui l'errore che possiamo fare in questa discussione è di entrare sul personale, a me è capitato così, a me è capitato così. Questo è un discorso teorico generale. Teorico generale, che a me, a te, a lui, eccetera, si è capitata una cosa diversa, è un altro punto. Ma dal punto di vista teorico generale, l'unico discorso anticapitalista, e ripeto, tollerante e non violento, che si può fare, è un discorso antidialettico di rottura totale, per cui una cosa o non è o non è. Sarò chiaro, semplicissimo, in termini comunisti, perché alla fine, sì, sarò un anarchico, ma sono anarchico perché sono comunista. Allora, la relazione capitale-lavoro, questa non è mia, è di Lucio Colletti, quando ancora era un uomo, la relazione capitale-lavoro non è una relazione dialettica, è una relazione dialettica nel capitalismo, quindi il capitalismo si preserva conservando la relazione dialettica lavoro salariato-capitale, ma la relazione capitale-lavoro è una relazione di opposizione reale, in cui una cosa spazza via l'altra. Mentre la reazione dialettica è una reazione di violenza, per cui il capitalista sottopone a violenza il proletario sottopone a violenza il capitalista attraverso le manifestazioni, le occupazioni, eccetera, la reazione di opposizione reale ha una soluzione semplicissima, ma di una semplicità disarmante: abolizione della proprietà privata, che è una soluzione non violenta. Non c'è nessuna necessità di mandare la gente per strada, di farla cannoneggiare dall'incrociatore Aurora o altre amenità di questo genere. È molto semplice. Ma la proprietà privata si abolisce semplicemente capendo la semplicità dell'oggetto. Il capitalismo esiste in quanto esiste la proprietà privata. Io non posso avere una relazione dialettica se no preservo la relazione capitalista-lavoro-salariato, abolisco la proprietà privata. Questo si può fare tra un minuto. Ma è una questione intellettuale che va ben oltre i miei, i tuoi, i vostri, i nostri problemi. Cioè, ognuno c'è, abbiamo tutti le nostre incoerenze, i nostri problemi, dobbiamo guadagnarci da vivere. Ma questo, attenzione signori, non replichiamo quello che sentiamo nelle parrocchie. Oh, siamo tutti imperfetti, allora... Un'altra cosa che bisogna fare è, quando una cosa è noiosa, diciamo, è noiosa. Qualcun altro? E che fai laggiù? Che ti sei nascosto? Ti sei buttato nel pubblico. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Fate ste facce, eh. Ma che tu hai detto? Io sono mica che piange, un po' mi scappo. No, nel senso, cioè, credo che gli stimoli che ci abbiamo avuto stasera sono stati veramente molti, insomma, magari ci vorrà un po' di tempo pure per metabolizzarli, credo. E se non ci sono altri interventi, credo che possiamo anche chiudere. Scusa, io domani parto per una conferenza tra i grandi economisti intelligenti, eccetera. Non succederà quello che è successo qui. Io lo dico sempre, quando mi frega niente, come passa dentro e qua e esce di là. Ma dico anche di peggio, sai, leggete le cose mie e vi fa ammazzare da ridere. Ma non è questo il punto è che io, qui ne abbiamo parlato, domani qualcuno mi dirà, questa è filosofia, se vado dagli economisti, vado dai filosofi e fanno, ah ma questa è economia. E via dicendo. Quindi apprezzo moltissimo e vi ringrazio perché ripeto dal 77 c'ho qua, cerco di dirlo a destra o manca, capita raramente che se ne discute. Grazie molto. Grazie a te. Se vuoi tornare, come dire, quando vuoi. Vabbè, se sopravvivi alla conferenza. E niente, volevo ringraziare pure tutti voi che ci siete stati a sentire. Adesso ci sarà l'asta delle biciclette, tanto perché si parla di monete che non ci interessano. niente asta, l'asta è abolita stasera. E niente, grazie anche a qua l'intervento che ha fatto, a Dario che purtroppo se è andato, ma possiamo ringraziare. E che è? A Dario sta lì? Grazie Dario. E niente, speriamo che questo sia stato, come dire, un inizio. Io mi auguro che sia solamente la prima di una serie di incontri che possiamo fare su questi temi. Se tutti, insomma, tutti i presenti hanno qualche tematica magari in particolare che gli sta a cuore, sulla quale vogliamo discutere. Secondo me questa è stata una prima che varrebbe la pena di replicare quanto prima. Quindi, insomma, sei tutti invitati. È la peggiore del mondo, non immagino. La prossima volta andiamo buttando. Ciao, grazie a tutti.